Vacanza di lago. Capitolo terzo. La vita sul lago concedeva una serie di insostituibili vantaggi. Primo fra tutti la qualità rara del sonno, che si faceva naturalmente più continuo e profondo dentro i silenzi cupi e cullanti delle acque basse della sponda più vicina alle case, appena increspate da un soffio notturno di vento, ancora surreale, e per questo più confortevole. Il lago era immerso nella semplicità dei colori calmi dei faggi, delle forme più vive e leggere, che rianimavano il paesaggio di squarci boschivi e più azzurri alle cime, oscuri e improvvisamente lucenti. Martin aveva raggiunto i nonni, come ogni anno, per una breve vacanza, somministrata stavolta come una pozione balsamica o magica per le sue recenti sconfitte scolastiche. Quello era stato un anno di grandi delusioni e fallimenti, prima fra tutte una bocciatura trionfale, la prima della sua vita, che adesso fioriva nei suoi pensieri come uno stelo ruvido di ortica, lasciandola sempre senza parole alle richieste pressanti dei parenti sulle motivazioni. Anche l'esame di ammissione all'Accademia Saint-Saëns per la classe di violino di Bernard la vide esclusa. In quel caso la delusione fu doppia, poiché tutti credevano che ormai almeno lì la ragazzina si sarebbe espressa a dovere, recuperando almeno in parte le incomprensioni del mondo scolastico ufficiale attraverso l'incanto e la scapigliatura dell'arte violinistica. Ma quel mattino dell'esame la commissione non ebbe pietà. Martino aveva le mani troppo piccole e imprecise sulla tastiera, aveva fallito l'esecuzione fin dalla prima arcata, schiacciando troppo i suoni oltre il dovuto e spezzando le frasi delle sequenze melodiche prima ancora di lasciarle respirare, senza riuscire a dargli un minimo di direzione e non controllando in nessun modo le dinamiche e i tempi della musica. La ragazza fu ascoltata da tutti con una distrazione consapevole, come ostentata. Quello stesso suono così imperfetto provocava una disattenzione di imbarazzo verso i suoi continui errori, i suoi difetti imponenti di arco, la sua eccessiva straripante emozione incontrollabile che la portò a fermarsi in due punti importanti della sonata. Rimase bloccata ancora nello stesso punto, il più impervio, senza più riuscire in alcun modo a proseguire. Il suo esame finì lì, nel silenzio più improvviso della commissione, dopo l'ultimo stridio di corde, interrotto dal movimento secco di un braccio di Bernard. La sua espulsione dall'Accademia fu approvata all'unanimità, da tutti i membri della commissione e dallo stesso suo professore, come nell'empatia calda e sensitiva di un applauso silente alla sconfitta. Le ultime parole del professore furono chiare, sintetiche. «Mia dolce Martin, adesso non ti rimarrà che trovare la tua magia in qualche altra cosa. In fondo ognuno ce l'ha. La tua sarà da qualche altra parte ad attenderti». La ragazza lo guardava impaurita e ancora tremante, fin dentro gli occhi. Bernard la baciò con delicatezza, tra la tempia e la fronte ancora sudata, tenendole il capo fermo in una mano. Martin da quel giorno cominciò ad ostinarsi a pensare a quella specie di strana magia che doveva essere conficcata dentro da qualche parte. Ormai la sua vita era nella famiglia Menier. Victor Menier era il suo nuovo padre adottivo. Erano passati molti anni dai tempi del refettorio. Martin pensava in continuazione alle ultime parole del suo professore prima di addormentarsi, quando poi crollava di sonno, svegliandosi al mattino con lo stesso esatto pensiero nella testa, che tendeva ad angosciarla sempre di più, come se fosse una vera e propria ossessione, la sua magia. Intanto avrebbe raggiunto il lago dai nonni, dai genitori di Victor Menier, a mani vuote e con il cuore deluso e disfatto da quei suoi continui dubbi su quella che sarebbe stata la sua vita, adesso ancora più numerosi. Era partito di buon'ora per la regione del lago di Lançon, accompagnata alla stazione dalla sua sorella maggiore. Thank you. Sua sorella Josefina ormai era già lontana, con una mano nei capelli e gli occhiali da sole, che parlava al telefono, prima di svanirle dalla vista. Il suo treno giunse al lago in meno di 3 ore. Il pomeriggio sembrava accoglierla con i colori migliori e nei suoi tratti climatici meglio indovinati. Non c'era neppure un filo di vento. Il nonno aveva quei pantaloni chiari che Martina gli aveva regalato lo scorso anno, ancora come nuovi. Con il nonno si discuteva tanto e di tutto durante il tragitto. Le distanze del tempo non sembravano più influire sui loro percorsi, sulle loro storie lontane che si confrontavano e si incrociavano nelle trame dei loro lunghi racconti perduti, come i binari e gli scambi metallici della vecchia ferrovia, che proprio adesso si stavano lasciando alle spalle. Quello dove era appena giunto era il luogo consacrato per ritrovarsi, dopo un anno di inutili fatiche e di giri a vuoto con se stessa, e forse anche per cercare quella strana e misteriosa essenza che le si nascondeva dentro e che il suo professore di violino era sicuro ci fosse da qualche parte. Anche per lei. La stanza da pranzo era immersa in una luce alpina e severa. Il suo posto era lo stesso di sempre, centrato nel regno fiabesco dedicato tutto a quella piccola principessina imbronciata. Sepolta in mezzo alle loro vecchie rughe sempre più profonde e quella loro stanchezza ravvivata dall'averla appena rivista dopo tanto tempo. Al mattino la stanza di Martina si scandiva di luci e di rumori, ancora prima delle altre. La svegliavano l'aroma forte di resina degli alberi vicini e la voce degli uccelli che attraverso la finestra le si infiltrava nella stanza come una presenza umana. La voce scura del nonno e le sue pacate consuetudini del primo mattino la proteggevano dall'impatto brusco con il risveglio in quel luogo comunque nuovo e diverso. Aperta la porta, il profumo del suo dopobarba sulla sua pelle olivastra ed invitante per un abbraccio sempre più lungo e soffocante, ma fatto di niente, senza parole e senza tempo. Quanto profumi, nonno, sei bellissimo stamattina. Il profumo di un vecchio non è mai bellissimo, tesoro mio. Ma tu non sei un vecchio, lo sai. Essere vecchio ed essere un vecchio sono due cose ben diverse, tesoro. A volte anche così lontane. Ci penso la sera tardi al mio tempo, e mai a quest'ora. Ecco perché mi profumo, perché non penso al tempo. La guardò con il viso ancora tutto bagnato di sapone e gli occhi lucidi di chi non ha più tempo. Aveva impresso il visino sottile di Martin, caldato dal sonno, che lo studiava curiosa, come ridiventata all'improvviso una bambina. «Ciao, amore, come hai dormito?» disse la nonna Teresa, appena sbucata dal corridoio. «Nonna, scusami, ti ho proprio dimenticata. Aspetta che ti raggiungo in cucina. Lo vuoi del tè o preferisci qualcos'altro?» «Va benissimo il tè, adesso arrivo.» Erano ancora vicini. Il nonno la guardava soddisfatto e rapito da quella sua testa spettinata, che le copriva gli occhi freschi e ancora assonnati. Si ristrofinava con un dito, combattendo con la luce del sole entrata dalla finestra. Martin raggiunse la nonna Teresa in cucina. «Questa mattina ci sarebbe una novità, tesoro», disse la nonna, mentre le versava dalla tagliera la bevanda bollente nella sua tazza preferita. «Indovina un po' chi sta per arrivare al lago?» «Non lo so, non riesco ad immaginarmelo.» «Pensaci bene e vedrai che ci arrivi, avanti, e che poi non te ne vorrai più andare da qui.» Martin sorseggiò pensierosa, con esitazione. Poi si fermò con la tazza calda e fumante, ben stretta tra le due mani. «Pierre! Sarà qui tra qualche ora, ho appena sentito sua zia. Pensa un po' che è risultato finalista al concorso internazionale Balakirev. Adesso viene ad esercitarsi sul piano a coda degli zii. Dice che gli è molto, molto utile esercitarsi qui, forse per avere quella giusta tranquillità che gli è così preziosa, Colombina. E poi a due passi ci sono i corsi di perfezionamento. Te l'avevano detto questo, vero?» «Questo non lo ricordo, anche se... Vi prego, nonna, non ditegli niente dell'esame all'Accademia, vi scongiuro, cercate almeno... Ma cosa sta dicendo? Non voglio che sappia del mio esame, è chiaro? Vi chiedo soltanto questo.» Dovresti parlare soprattutto con tuo nonno, piuttosto, che ha il brutto viziaccio di sbandierare sempre tutto in giro, senza rendersi conto di quanti guai che combina. Spero che non abbia già diffuso le notizie. Credo di no. Di solito racconta cose belle, cose di cui possa vantarsi con gli amici. Come allora avrà così poco da raccontare? Martin posò la tazza e lasciò cadere lo sguardo verso la finestra appena oscurata dalle tendine ricamate dalla nonna. Adesso intravedeva il lago e i primi riflessi di sereno che si stagliavano sull'acqua. Pierre arrivò con il treno delle 11, sempre impeccabile nella sua eleganza cittadina e borghese, che portava con sé come un colore statico, immutabile. I suoi occhi sfolgoravano chiarissimi di quell'azzurro fondo impenetrabile. Aveva i capelli di un biondo acceso, che incendiava cuori e interi stormi di adolescenti in amore. Le ragazze cadevano ai suoi piedi a implorare la più piccola attenzione, anche un solo sorriso, e a mandargli lettere d'amore, pur sapendo che non avrebbero mai ricevuto risposte. Pierre era un pianista eccellente, dotato di qualità straordinarie, musicali e tecniche, abbinate ad un controllo assoluto e calcolato delle sue pulsioni, che lo rendevano macchinoso, anche se così perfetto, nelle sue brillanti e impeccabili esecuzioni. Aveva portato in viaggio due valigie in pelle chiara e pregiata, intonate alla tinta delle sue scarpe, sfilanti, silenziose, in quel passo regolare e posato, che lo faceva brillare altero tra i tanti passeggeri confusi e anonimi, in attesa di qualcuno che li accogliesse. In quella sua andatura così nobile e così gelida, spiccava subito un suo lato oscuro, intarsiato nelle tinte nordiche, dei suoi colori sfumati, nei suoi silenzi concentrati e consacrati, sul frutto molle della sua ricerca sonora, che lo dannava e lo spiritualizzava nello stesso identico istante. Pierre raggiunse l'abitazione degli zii in meno di 20 minuti dalla ferrovia. A differenza di Martin, nessuno di loro due aveva mai avuto l'abitudine di andarlo a prendere. L'artista allora procedeva a piedi, nella sua più completa, impeccabile autonomia. Al suo arrivo nemmeno l'accenno di un abbraccio, qualche informazione sui partecipanti al concorso, resoconti di vita mondana sugli ambienti spinosi dei conservatori, dei teatri, delle associazioni concertistiche locali. La corrispondenza calda sul tavolino dell'ingresso, che si infilava subito in mezzo ad un braccio, con la bocca già piena di un pasticcino agguantato dal piccolo vassoio che gli avevano preparato all'ingresso. Mai un cenno alla sua vita privata, al suo mondo affettivo e misterioso, nemmeno una carezza su quel viso lucente, senza stanchezze né pallori. Solo la gloria assoluta e disabitata di accoglierlo, unicamente per la possenza marmorea delle sue dita stabili, ormai famose fra le regioni dei laghi e dei festival concertistici più prestigiosi, per quel suo tempismo di acciaio che lasciava senza fiato gli auditori per la sua regolarità e la sua impeccabile coerenza narrativa delle trame melodiche e accordali. Martin si intratteneva con piacere sul lago. Quella prima mattina era da sola quando lo vide giungere da lontano, dalla strada vecchia dei faggi, ma rimase ferma dov'era, spaventata da doverlo incontrare e combattuta per le infinite bugie che gli avrebbe dovuto necessariamente raccontare. I due ragazzi si incontrarono soltanto nel pomeriggio. Pierre era intento a passeggiare con uno spartito aperto tra le mani. Martin, ancora troppo ansiosa, non potette evitarlo quando si trovarono faccia a faccia lungo quella strada. Spalancò gli occhi in un sorriso imperfetto del volto, quasi a mascherarsi la paura e l'imbarazzo. Pierre, che bella sorpresa! Oh, la mia piccola Martine, guarda un po', rieccoti di nuovo al lago. Sai che quest'anno non ti aspettavo? Davvero? Perché non lo sapevi che dopo la scuola questa è la mia tappa fissa? Sai, dopo il successo in accademia, temevo non avessi avuto più il coraggio di farti rivedere da me. Scusami la sincerità, ma con chi diavolo hai parlato, Pier? Io conosco tutto. Ho tutte le informazioni da tutti gli amici che suonano e che stanno nel giro grosso. Mi arriva tutto alle orecchie, anche quello che io non chiedo. Non è colpa mia. Comunque non fanno una tragedia. Sono cose che capitano a tutti, sai? Martina rimase tremendamente imbarazzata. Non sapeva più cosa dirgli. Abbassati gli occhi, continuò meccanicamente a seguire il suo passo nervoso, cambiando continuamente direzione lungo il sentiero. Allora, piccola, Mi racconti quest'anno cosa diavolo ti è successo? Dicono che eri davvero inascoltabile, è proprio così. Non saprei come cominciare, e poi non ho voglia di parlarne. È difficile dirti cosa mi sia successo, ho solo una gran confusione in testa, invece è semplicissimo. Credimi, tesoro mio. Semplicemente che non sei pronta per l'accademia, è tutto qui. Ma come fai a dirlo? Ti spiego subito. Conosco a perfezione la commissione che ti ha esaminata. Il professor Bernard è quello che decide e non è assolutamente un tipo che si fa troppi scrupoli pur di riempire le classi, dai retta a me. Tra l'altro, il posto di quest'anno c'era, e forse anche più di uno, se non sei entrata, è proprio perché hanno ritenuto impossibile un qualsiasi tipo di lavoro musicale con te. Non sei ancora matura, tutto qui. Ma questo lo pensi tu o ti è stato detto direttamente? Matura per cosa poi? Li conosco a perfezione, ti ripeto, e guarda caso, 2 giorni dopo sono venuti a sentire un quintetto nel quale suonavo anch'io. Quando ci siamo salutati, mi è venuto naturale chiedergli di te. Il professor Bernard mi ha chiamato in disparte e mi ha raccontato del tuo esame. Mi ha detto che è stata una cosa terribile, penosa, mortificante, solo a raccontarsi. E poi dovresti capirlo, anche lui ha una certa reputazione e davanti ai colleghi a sentire certe cose così, insomma, matura per cosa tu mi chiedi? Ma per la musica, amore mio. Sarà per un'altra vita, forse. E poi per il senso dell'arte, per il concedersi, per il mettersi in gioco. Cosa vuoi più che ti dica adesso? Che devi crescere un mondo. E intanto il tempo ti atterra e ti viene addosso. Capisci allora quanto è difficile? Martin strinse lo sguardo in una rabbia compressa, mostrando un rossore delle guance e un primo lento inumidirsi, che tentava di mascherare male di fronte a quello sguardo gelido e compiaciuto di Pierre. E cosa ti avrebbero detto ancora di me? Prima di tutto la posizione. Appena sei entrata in classe e hai preso lo strumento in mano, sei diventata una persona anziana. Come se il violino ti avesse scaricato addosso in una volta sola tutti gli anni che ancora ti separano dalla fossa, capisci? E poi l'intonazione, signorina, dicono che era orripilante. A volte parli in modo così disgustoso, Pierre, sei insopportabile. Perché? Mica te la sarei presa. Ricorda che un amico sincero è sempre meglio di tante atroci bugie dolciastre. Fanne tesoro, Colombina, te lo dice un amico. Un amico che sa tutto. Non dimenticarlo mai. La luce del giorno tendeva dolcemente ad attenuarsi in un ardesia screziato di bianchi opachi e nevosi. Il lago era calmo e muto quanto il suo dolore composto e ancora inespresso. Sei del tutto inutile, Colombina. L'importante è averlo scoperto per tempo. In tempo per cosa? Almeno per non illudersi troppo, capisci? In maniera che ci si prepari a questo nuovo ruolo di sconfitti. Una questione di allenamento, credimi, niente di più. Martin continuava ad ascoltarlo e a camminargli accanto. Tra un po' avrebbero incontrato quella galleria fitta di ontani che tanto amava e dove l'anno scorso avevano parlato così a lungo dei loro sogni. Adesso invece era tutto così diverso. Martin non lo riconosceva più. Quel ragazzo biondo e delicato dello scorso anno era cambiato completamente. Ma in questo cambiamento così bruciante, forse, lo desiderava ancora di più. Cosa credi che sia bello affinarsi giorno dopo giorno per mantenere un livello di forma tecnica? Che puoi perdere un soffio da un momento all'altro per esprimere le profondità del grande repertorio in questo annientarsi di fatiche fisiche e mentali? Forse l'utilità è proprio la mia vera condanna, che non mi lascia tempo per me e per gli altri, per quella scelta azzardata fuori dal comune, una vacanza diversa, e che mi costringe a curvare la mia vita per ore sul pianoforte, senza fermarmi mai, fino a quando non abbia raggiunto la padronanza perfetta del passaggio, che intanto il mattino seguente riprende a sporcarsi, se non lo rispolvere a furia di crampi e di bestemmie. Inutilità. Invece per te è tutto più facile, tesoro mio. Sei così meravigliosamente inesistente, inutile, che non devi dipendere da nessuno, invisibile al mondo. In un certo senso, sei anche in una soglia più avanzata della mia. Non credo a niente di quello che mi dici. E poi adesso basta parlare di queste sciocchezze, dimmi almeno di te, e non solo di quello che fai. Come l'anno scorso, ti ricordi che bello? Guarda che io non sono mai scollegato da quello che faccio. Dovresti averlo imparato ormai. Sta qui la grande differenza, io sono esattamente quello che faccio. Ed è in quello che faccio che c'è la parte più vera e più autentica di me. Tutto qui. Capisco. Vuol dire che mi toccherà ascoltare solo il tuo curriculum e nient'altro. Guarda che nessuno ti obbliga a starmi vicino, anzi, stamattina stavo appunto studiando lo spartito che dovrò riprendere in serata, quando poi tu mi hai interrotto. Se sei davvero così stanca e annoiata, puoi benissimo ritornare indietro, che intanto nessuno ti trattiene. Ah, grazie tanto. Questo è un do diesis, l'ho sentito? Come? Quel suono di quell'uccello lontano appena passato. Mi sembrava una cornacchia. Corrisponde a un do diesis. Perfetto, non cala neanche di un filo. Che incanto gli uccelli. Loro sì che la sanno lunga sulla tenuta dei suoni. E poi sentono così velocemente, sono lampi. Che meraviglia. Ma come si fa a riconoscere? Questo si chiama l'orecchio assoluto. Ed è una cosa che deve avercela per natura, e nel mio caso è come il colore degli occhi. Bello, impeccabile. Una cosa che avviene e basta. Una cosa straordinaria quando c'è, così facile, inspiegabile. Insomma, gratuita, senza sforzo. Vuol dire che l'orecchio ha saluto azzurro? Che stupidina che sei. Mi fai tenerezza per quanto ti fai sempre più stupida. Adesso capisco perché ti abbiano sbattuto fuori. Perché adesso fai così? Certe volte sei proprio un bambino e poi dall'anno scorso giuro che non ti riconosco più. Di questo ne sono felice. In effetti solo le persone importanti cambiano, si trasformano, si affinano. Tu invece rimani sempre uguale. E secondo me non riconosci nemmeno questa che nota è. Senti il mio fischio, dai, indovina che nota è. Ma io non ce l'ho l'orecchio assoluto. Dai, provaci, colombina, altrimenti pagherai un pegno. Allora prova con questa che è più facile. Dai, da quando io ti fischio ti do 3 secondi per dirmi che nota è, altrimenti ti devo dare un bacio, uno a modo mio. Martino non vedeva l'ora di prendere quel contatto, e a quel punto, anche se avesse avuto l'orecchio assoluto di Pierre, avrebbe volontariamente sbagliato la nota. Pierre fischiò un sibilo sonoro ma sottile, pulito, che sembrava raggiungere la riva del lago e strisciargli sopra ad arricciare. È un do? Bravissima, hai indovinato! Adesso indovina quest'altra. Fischiò ancora, mentre Martin, confusa e stordita, non riusciva più a capire se fosse stato solo un caso o se davvero avesse percepito i suoni naturalmente. Avanti, questa allora? Questo è un mi? Straordinario, ancora. Ma sei bravissima, tesoro. Com'è possibile che le indovini tutte? Pier continuava a fischiare e poi le diceva di aver indovinato tutto. Ma mentre Pier fischiava cominciava a ridere anche forte. E lei allora cominciò a capire che forse stava prendendola in giro e che aveva sbagliato tutte le note. Cominciò ad arrossire, poi a gonfiare gli occhi. Fa, sol, la. Voglio soltanto che tu soffra. Voglio che tu soffra tutta l'estate, colombina. Poi le diede un bacio secco sull'orecchio, che si trasformò in un morso leggero, e scappò via, saltellando di una gioia nervosa, instabile. Martin si fermò e guardò verso il basso, incrociando i piedi nel prato. Da lontano, Pierre la richiamò. Ma io scherzavo! Che stupida che sei! Non stavi scherzando. Allora scusami. Non credevo che te la prendessi così tanto. Adesso lo paghi tu un pegno. E io che c'entro? Io non ho sbagliato niente. Davvero? Ne sei proprio sicuro? Mentre Pier parlava, cominciò con uno sguardo svogliato a scorrere piano con gli occhi sul bordo strucito dei pantaloncini, che aderivano alla zona più morbida e piena delle sue cosce ancora chiare e senza sole. Adesso devo andare, si è fatto proprio tanto tardi, disse Martin. Vai via proprio ora, che stupidina. Vai via per non pagare il pegno, vero? Ormai ti conosco troppo bene. Non è vero, è che il nonno mi sta aspettando. Come vuoi. Comunque ricordo di non venirmi a disturbare domani, perché sto preparando il concorso. Non mi hai dato nemmeno il tempo di raccontarti. E salutami i nonni, non dimenticarlo. Allora vuol dire che ti farà vivo tu quando avrai del tempo, va bene? Non lo so, vedremo. Se la metti così non ti saluterò proprio nessuno. Fa un po' come credi. Le loro strade si divisero. Martin si avviò verso casa per un sentiero ancora poco illuminato, cercando di non pensare più a niente. Aveva i calzini corti e disuguali, e un polpaccio graffiato che si rigava di una tinta dolce e rosata per la luce strana di quell'ora. Sappi che non ti bacerò mai. A quell'ultimo grido, Pier fu mosso come da una sfida feroce che lo costrinse a raggiungere in uno scatto. Martin se lo ritrovò accanto all'improvviso, impeccabile e bellissimo nel suo distacco misurato, che adesso la sfiorava appena del suo respiro più grosso e tenace. Apri la bocca! Pier le serrava il collo con la stretta di un braccio. Martin si scostò come irritata, poi si avviò più avanti, spaventata, incerta. Pier rimase fermo dov'era e scartò un cioccolatino al liquore. Non sai cosa ti perdi, Martin. Pazienza, Pier, mi arrangerò lo stesso. E le ultime parole si infransero oltre le colline, come echi sbiaditi, malinconici.